Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Bentornati a Fermata Provvisoria, il contributo del martedì di Fuscico Factory. La nostra fermata provvisoria di oggi è proprio qui a Bologna. Infatti andremo ad intervistare Lorenzo Bombacini, sassofonista e leader della storica Bononia Sound Machine. La band è attiva fin dal 1992 e ha saputo imporre negli anni un proprio sound e stile personale, che va dai grandi classici del soul, Otis Redding, James Brown, ai pezzi funk degli anni 70 fino a brani originali composti da loro. L'estro e la precisione di un'inimitabile sezione di fiati, il groove e la solidità di una collaudata sezione ritmica, l'anima e la presenza scenica dei cantanti rendono davvero uniche e coinvolgenti l'esibizione della BSM. Nel 2004 la band si aggiudica il primo premio all'Heineken Summer Kings of Soul e registra il suo primo album. L'anno dopo parte invece per un mini tour in Inghilterra e nel corso della sua carriera suona numerose volte al famoso Porretta Soul Festival. Ad oggi la Bononia Sound Machine ha all'attivo 4 album e inoltre ha creato un format che si chiama School of Soul, che è uno spettacolo che rompe un po' gli schemi del concerto tradizionale perché va a coniugare musica, immagini e parole. Ed è proprio una nuovissima versione della School of Soul quella che la Bononia Sound Machine porterà sul palco del Teatro Odeon di Bologna sabato 26 ottobre alle ore 21. Ci ascoltiamo un pezzo e poi ne andiamo a parlare direttamente con Lorenzo Bombacini. Don't need nobody. Tell me what is wrong. Don't. Ciao Lorenzo, benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao, grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, partiamo direttamente dalla School of Soul. Come è nato e come funziona questo spettacolo? Allora, la School of Soul è un progetto che la Bologna Sound Machine porta avanti ormai da diversi anni. Il primo esperimento di questo format l'abbiamo fatto, penso, nel 2005, quindi è passata una vita. Ed è un viaggio, è un percorso assieme alla Bologna Sound Machine in quella che è la storia di quello che per noi è il genere musicale di riferimento, cioè il soul, cioè la black music targata Stati Uniti degli anni 60 e degli anni 70, quindi fino al funk e fino alle porte della disco music. È uno spettacolo che si basa su, ovviamente, la musica dal vivo della Bologna Sound Machine, ma che fa anche dell'interazione con il pubblico, del racconto, della proiezione di video, della visione di foto, un percorso completo in quella che è stata la nascita e l'evoluzione di questo genere musicale. Ecco, sabato 26 al Deon proporrete una nuova versione della School of Soul. Di che cosa si tratta? Sabato 26 saremo al Deon con questa School of Soul che ovviamente cerca di raccontare, di avere sempre un fil rouge, un punto di partenza e un punto d'arrivo per quello che è un genere che oggettivamente è sconfinato ed è effettivamente bellissimo da andare a scoprire e studiare. Questa volta partiremo da quello che tante volte può essere un punto di arrivo, partiremo da James Brown, che è stato un grandissimo innovatore di questo genere musicale, e percorreremo una strada che ci porterà fino a quello che noi riteniamo essere stato uno dei suoi discepoli forse più famosi, ma anche prediletto, perché so che James Brown lo apprezzava veramente tanto, che è Michael Jackson. Detta così potrebbe sembrare una cosa, se vogliamo, anche limitata in un determinato periodo di tempo, anche non eccessivamente lungo. In realtà in mezzo ci sono state tutta una serie di innovazioni nel mondo della black music, a partire soprattutto dalla musica che si sviluppava nel cinema e nei telefilm, che prendeva spunto evidentemente dalla scuola di James Brown e arrivava fino a Michael Jackson, che sarà anche quello un po' un fil rouge di questa edizione della School of Soul, che arriverà fino ad alcuni artisti italiani che secondo noi sono stati particolarmente rappresentativi in questo genere. Tra l'altro il concerto di sabato conclude una piccola rassegna che parte il 24 e si conclude appunto il 26 ottobre, che è stata prodotta dalla direzione del teatro Deon proprio in collaborazione con voi. Qual è l'idea che c'è dietro a questa rassegna musicale? La rassegna si chiama Bologna e Nuvole, è arrivata alla sua seconda edizione. E come dici giustamente tu, è una sorta di joint venture tra il Teatro Deon e la Bologna Sound Machine, e ha un obiettivo molto molto preciso, che è quello di riportare la musica popolare nel senso più ampio del termine, senza grosse distinzioni di generi, a teatro. Noi non dobbiamo dimenticare che Bologna negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80 è stata una vera, vera capitale della musica, dell'innovazione musicale, della musica radiofonica e anche della musica nei luoghi, quindi i teatri, le piazze erano sicuramente i luoghi della musica di quegli anni. Poi, per una serie di a me ignoti motivi, la musica popolare si è un po' allontanata, o i teatri si sono un po' allontanati dalla musica popolare. E il nostro tentativo è proprio quello di riportare i gruppi elettrici, quindi non solo la musica classica, che quella per fortuna è rimasta nei teatri, ma i gruppi elettrici a suonare in teatro. Il Teatro Deon oggettivamente è una delle mecche teatrali di Bologna, e quando ci è stato proposto 3 anni fa di fare questa cosa abbiamo accettato molto onorati di poter collaborare con loro, e l'anno scorso abbiamo iniziato e quest'anno siamo alla seconda edizione. Certo. Me. All'interno della vostra band ci sono tanti musicisti che provengono da formazioni diverse, da generi diversi, e questo poi permette ovviamente un continuo interscambio artistico e stilistico. Come si fa a mantenere una forte identità, ma allo stesso tempo trasformare, variare, arricchire il patrimonio musicale del gruppo? La ricetta sta nelle persone. Il nostro genere è nell'esempio più classico, non è un genere nato in Italia, e quindi noi cerchiamo tutti assieme di mettere insieme le nostre esperienze, il nostro background, per suonare una musica che dal punto di vista del DNA non ci appartiene. Questo permette di poter lavorare sui suoni, permette di poter lavorare sull'ensemble, e quindi il fatto proprio di essere in tanti, la Bologna Sound Machine è una band di 12 elementi, di essere in tanti, di avere al proprio interno musicisti di provenienze differenti e di età molto differenti, con gap molto importanti in certi casi, è proprio il vero punto di forza di una band come la nostra. sono le persone che fanno una band, e quindi quando tu riesci a mettere assieme tutto questo patrimonio e lo riesci a far girare, ovviamente con le motivazioni, ovviamente con gli stimoli, secondo me riesci a ottenere veramente qualcosa di buono. La BSM inoltre è una band a tutto tondo, quindi concerti, progetti come appunto la School of Soul, di cui abbiamo parlato ora, conferenze, cliniche, workshop musicali, ma anche un'associazione che avete creato nel 2009, l'associazione Bononia Sound Machine, nata per promuovere la divulgazione del soul e del funk. Insomma, al centro di tutto però c'è sempre la musica. Sì, c'è sempre la musica, che appunto in tutti questi anni, la Bononia Sound Machine è nata nel 1992 e in tutti questi anni ci ha proprio permesso di creare una sorta di famiglia. E quindi quando abbiamo visto che la nostra relazione, il nostro modo di costruire le cose si stava così cementando, abbiamo pensato che fossero anche arrivati i tempi, che i tempi fossero maturi per costituirsi in associazione, per andare un pochettino a sancire quello che sulla carta avveniva già da tanto tempo. E l'obiettivo della Bononia Sound Machine è e rimane sempre quello di tentare di costruire un qualche cosa giorno dopo giorno, e ovviamente di divulgarlo. Quindi, diciamo, l'oggetto sociale, se lo vogliamo definire in termini tecnici, l'obiettivo della Bononia Sound Machine è la divulgazione sul nostro territorio della musica che a noi piace e che ovviamente ci accomuna e ci permette di trovarci, di stare bene insieme, di suonare, di studiare, di divertirci giorno dopo giorno. Nei vostri spettacoli, nelle vostre esibizioni, C'è sempre anche una grande attenzione al rapporto band-pubblico e al coinvolgimento delle persone presenti. Voi quindi come vivete il rapporto con il pubblico negli spettacoli? Beh, il rapporto con il pubblico è fondamentale per tutte le forme d'arte, secondo me, che vedono un'interazione tra una parte e l'altra, ma nella musica probabilmente ancora di più. E James Brown diceva: io quando faccio uno spettacolo devo pormi l'obiettivo di far divertire il pubblico che mi viene a vedere quella sera, perché quelle persone durante il giorno possono aver vissuto delle rotture di scatole inenarrabili, possono aver avuto problemi sul lavoro, problemi nella scuola, e quando vengono a vedere un mio spettacolo non devono avere problemi, devono divertirsi. Il concetto di divertimento è un concetto fondamentale quando si suona. Ritengo che uno dei complimenti più belli che ci vengono fatti sia: si vede che vi divertite. Cioè, io penso che quando una band trasmetta al pubblico la propria voglia di suonare e il fatto che si stia divertendo a fare quella cosa, il pubblico lo capisce sicuramente e probabilmente si diverte a sua volta. È un'interazione di godimento, è un'interazione di divertimento. Deve partire anche dalla band, e il pubblico, quando lo percepisce, ti dà veramente delle grosse soddisfazioni. È vero, è vero. E oltre a quello di sabato 26 al Deon, avete altri appuntamenti, altri concerti in programma? I nostri concerti riprenderanno, salvo sorprese particolari, con l'inizio del prossimo anno, e stiamo definendo le date che a breve saranno disponibili, perché dopo questo 2019, che è stato, devo ammetterlo, di grande soddisfazione, perché comunque abbiamo avuto la possibilità di suonare veramente in diverse occasioni molto differenti, l'ultima delle quali è stata al Blue Note di Milano qualche settimana fa, con grande riscontro di pubblico, dicevo, dobbiamo forzatamente prenderci un periodo di pausa, perché stiamo completando il nostro ultimo lavoro discografico, che nasce anche questo da uno dei nostri progetti più recenti, che è un progetto di rivisitazione in chiave soul della musica dei Beatles, che sta arrivando veramente agli sgoccioli, e quindi è giusto che anche a questo progetto venga dedicato il tempo giusto, in maniera tale da riuscire a completarlo e poterlo quindi proporre sin dall'inizio del prossimo anno. Bene, allora con quest'ultima notizia io ti ringrazio per l'intervista e spero di riaverti e riavere voi come band di nuovo qui a Radio Città Fucico. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, e mi raccomando, ci vediamo il 26 al Teatro Odeon, e sempre avanti col soul, sempre avanti col funk.